Capitolo 20. Nella stanza della malata. Il dottore non ebbe esitazione nell'esprimere il suo verdetto. Il destino di Phyllis, come più di un suo conoscente aveva previsto, era segnato. Il trauma e l'esposizione alle intemperie avevano solo accelerato una fine che da tempo era inevitabile. La consunzione aggravata da una malattia cardiaca, entrambe in stato avanzato, la tenevano in pugno. A questi mali si era aggiunto un forte attacco di bronchite che le aveva colpita sin dalla notte della tempesta di neve, per cui si poteva dire che la sua vita fosse appesa a un filo. Poteva essere una questione di giorni, disse il medico prudente, di settimane o perfino di mesi. Un viaggio al sud, in uno stadio meno avanzato della malattia, sarebbe stato utile a salvarla, chiese Gertrude con le labbra livide che si aprivano e chiudevano meccanicamente. Era possibile che le avrebbe allungato la vita, fu la risposta. Ma pareva che l'ombra della tomba doveva essersi allungata su quel bellissimo fiore di donna, quasi fin dall'inizio. La morte è stampata in faccia, mormorò la signora Marion cupamente. Le ho visto. L'ho sempre visto. Nel frattempo andava e veniva gente in Upper Baker Street, persone partecipi, indiscrete, affaccendate a far qualcosa. Fanny, sgomenta in lacrime, compariva ogni giorno al capezzale dell'inferma, carica d'uva e di altre squisitezze. Povera vecchia Fan, disse Phyllis, come sarebbe stravolta se sapesse ogni cosa. Non pensi, Gertie, che sia tuo dovere farlo sapere al signor Marsh? Zia Caroline giunse da Lancaster Gate con un rimprovero stampato in ogni piega del suo bel vestito. Non riesco a pensare, osservò con le sue amiche, come Gertrude possa perdonarsi di aver trascurato in maniera così colpevole la salute di quella povera bambina. Gertrude evitò la zia, dicendo a se stessa nell'amarezza della propria mortificazione. Sono le zie Caroline ad aver ragione a questo mondo. Avrei dovuto ascoltarla. Ha capito la natura umana meglio di me. I Devonshire, che non erano tornati da molto dalla Germania, furono costanti nel manifestare la loro cortesia. I legami allentati tra le due famiglie tornarono a essere nuovamente saldi in questo momento di bisogno. Lord Watergate faceva regolari visite in Baker Street. Gertrude trovava la sua presenza più sopportabile di quella delle persone con cui doveva fingere. Conosceva il suo segreto. Con lui era al sicuro ed era quasi grata che lo conoscesse. Aveva scritto un breve biglietto a Lucy in cui spiegava che Phyllis era seriamente malata, ma la spingeva a restare una settimana almeno in Cornovaglia. Avrà bisogno di tutta la forza che può mettere insieme, pensava Gertrude. Pure lei stava facendo miracoli nel lavoro senza alcun sforzo consapevole. Fredda, nervosa, ammutolita, oscillava fra lo studio e la stanza della malata, muovendosi come se obbedisse a qualche meccanismo nascosto. Una creatura apparentemente senza volontà, emozioni o pensieri. Era venuta a conoscenza dai commenti cinicamente sinceri di Phyllis che era stato un puro caso che lei non fosse arrivata troppo tardi e che Darrell avesse fatto ritorno ai Sycamores. Avevamo intenzione di partire per l'Italia quella notte stessa, disse Phyllis. Ci siamo diretti verso Charing Cross e ha iniziato a nevicare. Io ho avuto un attacco di tosse così forte che Sidney si è spaventato e mi ha riportata a casa a St. John's Wood. Gertrude, che rimase in silenzio mentre accoglieva queste confidenze, scostò la testa con un involontario movimento istintivo di ripugnanza quando menzionò Darrell con il suo nome di battesimo. Gertie, disse Phyllis, che giaceva sdraiata fra i cuscini, un fantasma bianco con doroventi chiazze rosse sulle guance. Gertie, è giusto che te lo dica. Sidney non è cattivo come pensi. Se n'è andato durante l'estate perché stava iniziando a prendermi troppo a cuore. È ritornato solo perché non poteva semplicemente farci nulla e uscirei dalla stanza e non mi parlerai mai più. Io sapevo che avevo una moglie, Gertie. Ho sentito parlare di lei dagli Oakley proprio il primo giorno che l'ho visto. Era la sua modella. Beve come una spugna e 10 anni più di lui. Ho scritto nella lettera che ci saremmo sposati perché non sapevo proprio come dirtelo. Pensavo che molto probabilmente ne eri al corrente. Gertrude aveva raggiunto la finestra e stava tirando giù le tende con le dita goffe e intirizzite. Stava diventando buio e in meno di mezz'ora Lucy sarebbe stata a casa. Era trascorsa soltanto una settimana da quando era partita per la Cornovaglia. Lo Lo dirai a Lucy, raggiunse la voce fanciullesca di Phyllis dai cuscini. Non lo so. Stai sdraiata ancora un po', Phyllis, e vedrò se la signora Marion ti ha preparato la gelatina. Quante cortesie, la signora Marion. Sì, infatti, non tiene per niente conto del fatto che non possiamo risarcire in alcun modo. Gertrude incontrò la signora sulle scale polverose con un piatto in mano. Andate a coricarvi, signorina Lorimer. O dovremmo bussare a lungo e dove andremo a finire? Non dovete permettere che la signorina Lucy vi trovi in questo stato. Gertrude obbedì meccanicamente, entrò in soggiorno, si buttò sul piccolo divano rigido e premette la faccia sul cuscino. Doveva essere sprofondato in un sonnellino perché la successiva cosa di cui fu cosciente fu la voce di Lucy nell'orecchio e aprendo gli occhi vide la sorella china su di lei con una candela in mano. L'hai vista? Le chiese sollevandosi con aria stordita. Sono tornata proprio in questo istante. Gertrude, ma cosa ti sei fatta? Oh, sto bene, sta accennando un sorriso. Lasciati guardare, Lucy, hai proprio due guance in fiore. Gertrude, Gertrude, cosa ti è successo? Sono arrivata. Oh, Gertrude, sono arrivata troppo tardi. No, ma è molto malata. Lucy gettò le braccia al collo della sorella. E ti ho lasciata sola in questi giorni, mia povera Gertie. Salirono insieme al piano di sopra e Lucy entrò nella stanza dell'inferma, mentre Gertrude rimase nella camera davanti, che era proprio la sua. Dopo circa 10 minuti, Lucy uscì fuori singhiozzando. Phyllis, Phyllis, diceva fra le lacrime con voce impercettibile. Gertrude, più bianca che mai, si alzò senza dire una parola ed entrò nella stanza di Phyllis. Povera cara Lucy, pareva che stesse per piangere. Le ho chiesto se avesse qualche messaggio per Frank, disse Phyllis mentre la sorella si era seduta dietro di lei e sistemava la lampada. Ti stai agitando troppo, rimani ancora stesa, Phyllis. Ma Gertie, mi sento meglio stasera. Scese il silenzio. Gertrude cuciva e la malata giaceva a occhi chiusi, ma il battito delle sue lunghe ciglia rivelava che non stava dormendo. Gertie, nel giro di mezz'ora gli occhi grigi si erano riaperti e guardavano fissi il volto della sorella. Cosa c'è? Sto davvero morendo. Sei molto malata, disse Gertrude con un filo di voce. Ma morire sembra così impossibile, così difficile in qualche modo. Frank è morto e già questo era inverosimile, ma sentire che siamo noi stessi a morire. Bambina mia, uscì dalle labbra di Gertrude, non essere addolorata. Non sono mai stata una brava persona, ma chissà perché non ho paura. Dovrei, visto che sono stata una poco di buono, ma non ce l'ho, Gertie. Cosa c'è? Gertie, sei sempre stata buona con me. Anche quest'ultima settimana. Ma è questo il peggio di voi, brava gente. Sei forte come una roccia. Mi porti la gelatina, rimani alzata tutta la notte con me, ma non mi hai mai perdonata. Sai che è la verità. Gertrude si inginocchiò al suo capezzale. Aveva un grande rimorso nel cuore. Mise la mano su quella di Phyllis che aggiunse: E c'è una cosa che desideravo dirti. Sono felice che tu sia venuta a portarmi via. In quel preciso istante in cui ti ho vista furiosa, con la faccia bianca e i vecchi vestiti ricoperti di neve, ero felice. È divertente se uno ci pensa. Ero terrorizzata, ma ero felice. La testa di Gertrude si piegava sempre più in basso sul copriletto, il suo cuore che si era congelato e si sciolse dentro. Nell'agonia d'amore e di rimorso, allungò le braccia mentre i singhiozzi salivano copiosi e rapidi e strinse al petto quella figura sciupata. Phyllis, bambina mia, chi sono io per doverti perdonare? Cosa c'entra il perdono tra di noi? Phyllis, mia piccola Phyllis, hai dimenticato quanto ti amo? Capitolo 21. L'ultimo atto. Non erano trascorse ancora 2 settimane quando Gertrude trovò la forza di raccontare a Lucy quello che era accaduto durante la sua assenza. Era un desolato pomeriggio d'inizio dicembre. Phyllis giaceva nella stanza accanto, fredda, rigida e muta per l'eternità. E lui si stava cercando in un armadio con il cuore gonfio di tristezza degli abiti da lutto che vi erano appesi. Ma all'improvviso, dall'oscurità del ripiano più basso, qualcosa di luccicante catturò la sua attenzione. Una cosa bianca e sfavillante che stava là arrotolata come un serpente. Era la splendida veste di raso di Phyllis che Gertrude aveva gettato lì la notte fatale e per una vera e propria ripugnanza non aveva più toccato. Ma devi restituirla, disse Lucy quando in poche parole interrotte la sorella le ebbe spiegato la ragione per cui quell'indumento si trovava nell'armadio. Lucy era veramente pallida e seria, raccolse l'abito di raso che nulla avrebbe mai indotto a Gertrude a toccare. Lo piegò accuratamente e iniziò a cercare della carta marrone in cui impacchettarlo. La squallida comicità del piccolo incidente colpì Gertrude. C'è dello spago nello studio, disse con una vaga ironia e tornò indietro al suo posto nella camera della defunta. Nella sua bara lunga e stretta giaceva Phyllis, bella e immobile, con dei fiori fra le mani. Era sgusciata via dalla vita quietamente, pochi giorni prima, e il giorno dopo sarebbe stata deposta sotto le fresche zolle erbose del cimitero. Gertrude rimase un momento immobile a guardare quei lineamenti delicati. Sul petto della defunta era posato un mazzetto di palide viole che Lord Watergate aveva mandato il giorno prima. E ora Gertrude capiva. Le balenava in quell'attimo nella mente quello che da lungo tempo era scomparso: il ricordo del particolare interesse di Lord Watergate per Phyllis. Era evidente adesso, pensava, mentre l'immagine di un altro volto esanime fluttuava nella sua visione. Anche quello era il volto di una donna bella e fragile, di una donna che aveva peccato. Non aveva mai colto la somiglianza prima, ora era sufficientemente chiaro. Poi prese ancora una volta il posto della veglia accanto al letto e lottò per bandire quel pensiero. Agire, agire, agire, questo è tutto quel che rimane a un individuo in un mondo in cui pensare, eccetto che per pochi esseri eletti, significa follia. Era caduta in un mezzo stordimento quando si era resa conto di un penetrante senso di disagio che si impossessava di lei, di un odore forte, dolce e indescrivibilmente odioso che ondeggiava intorno a lei come un incubo alato. Aprendo gli occhi con uno sforzo, vide la signora Marion che stava immobile, con aria grave ai piedi del letto, con un'enorme corona di tuberosa in mano. Gertrude si alzò dalla sua sedia. Chi ha mandato quei fiori? Domandò con durezza. Li ha portati un domestico. Non ha fatto alcun nome e non ci ha attaccato nessun biglietto. La donna posò la corona sulla coperta e si ritirò con discrezione. Gertrude rimase a fissare i fiori incantata. In un primo momento di quella rabbia fredda, per quanto soffocante, che era scesa su di lei, avrebbe potuto prenderli con le sue mani e strapparli petalo per petalo. Un istante aveva allungato la mano verso di loro, il successivo si era voltata dall'altra parte, bloccata da un senso di impotenza, di ripugnanza, da un disprezzo incommensurabile. Quali armi avrebbe potuto usare contro la scorza impenetrabile di un uomo simile? Per lei non è mai stato importante, le sussurrava una voce assetata di vendetta dalle profondità del cuore. Allora si ritrasse spaventata davanti all'odio che aveva preso possesso della sua anima. La collera che l'aveva spinta quella terribile sera della fuga di Phyllis, proprio quell'indubbia forza che le aveva permesso di avere la meglio, le sembravano sentimenti spaventosi e abominevoli. Avrebbe voluto con tutta se stessa respingere il loro pensiero, bandire loro il ricordo di Darrell, dalla mente per sempre. Era una tetra mattina di dicembre, con un leggero vento dell'est nell'aria, quando Phyllis fu deposta nel luogo dove avrebbe riposato per l'eternità. Per Gertrude tutti gli stucchevoli dettagli del piccolo corteo funebre erano come le ombre di un incubo. Stando immobile come una statua, sulla fossa aperta, non sentiva nulla, eccetto il profumo dolciastro e asfissiante delle tuberose, che sembrava essersi separato e prevalere sull'essenza più delicata delle rose e delle viole, e dalla bara coperta di fiori librarsi incontaminato verso l'alto. Lucy era al suo fianco, silenziosa e spenta, con gli occhi abbassati. Fanny singhiozzava rumorosamente all'altro. Lord Watergate stava di fronte a loro con il capo chino, le lacrime che solcavano il viso di Fred Devonshire mentre le operazioni di sepoltura procedevano. Zia Caroline sembrava uno spirito in cerca di vendetta, zio Septimus piangeva sommessamente. Pareva un atto di atroce crudeltà voltarsi alla fine e lasciare la povera fanciulla a giacere lì, sola, mentre il becchino con la pala lanciava a terra sulla bara. Atroce ma inevitabile. E a mezzogiorno, Gertrude e Lucy ritornarono nella lugubre carrozza a Baker Street, dove il signor Marion aveva chiuso alternate le imposte delle vetrine del negozio e il fabbricante di ombrelli aveva tirato giù le veneziane. Gertrude restò sveglia tutta la notte, scossa dai brividi, ad ascoltare la pioggia che batteva contro i vetri delle finestre. Capitolo 22. La speranza e un amico. Gertrude era seduta alla finestra insieme a Constance Devonshire in un gelido pomeriggio di gennaio. Il volto di Constance aveva un aspetto più tenero. La feroce, indocile infelicità del suo cuore aveva lasciato il posto a un dolore più mite, quel naturale cordoglio umano per i defunti. Era una visita d'addio. Il giorno dopo sarebbe partita con la sua famiglia per il sud della Francia. Ho provato a farmi accompagnare da Fred oggi, stava spiegando Constance, ma è a cena con alcuni spiriti affini al Café Royal e poi andranno al Gaiety. Mi ha detto che non avrebbe avuto tempo. Fred era stato una volta sola in Baker Street dallo sfortunato colloquio con Lucy. Aveva reso una breve visita di condoglianze, occasioni in cui aveva tenuto un atteggiamento assolutamente decoroso e si era sentito turbato nell'incontrare lo sguardo di Lucy. La ripresa dei vecchi rapporti non era più possibile come di solito accade in simili circostanze. Quanto prevedi che rimarrete a Cannes? Disse Gertrude dopo una delle pause che continuavano chiaramente ad allungare la conversazione. Probabilmente fino alla fine di marzo. Non viene su Lucy a dire addio alla sua amica? Sarà qui presto. È in ansia per la sovraesposizione di alcune lastre e sta cercando di rimediare a questo inconveniente. Ad ogni modo, lo sai che stiamo pensando di prendere un apprendista? Il signor Russell ha trovato una ragazza, una signora, che ci pagherà una ricompensa e probabilmente vivrà con noi. Penso sia un ottimo piano, disse Connie, guardando malinconicamente fuori dalla finestra. Come appariva strano, dopo tutto quello che era accaduto, stare lì sedute con tranquillità a parlare di lastre sovraesposte, ricompense, apprendisti. Guardando fuori dalla finestra nella strada così familiare, con i suoi affollati ricordi di una vita intensa ora spenta per sempre, disse a se stessa, come aveva fatto spesso Gertrude: Non è possibile. Un giorno di sicuro la porta si sarebbe aperta per accogliere la figura ben nota. Un giorno avrebbero sentito i suoi passi sulle scale, la sua voce nella piccola stanza. Persino con il pensiero che la tormentava, Constance percepì il rumore di qualcuno che saliva e incominciò a batterle improvvisamente il cuore. Un istante dopo, Matilda spalancò la porta e Lord Watergate, senza essere annunciato, entrò nella stanza. Gertrude si alzò per dargli un decoroso benvenuto. Sin dall'incidente che lo aveva portato a stringere un rapporto più stretto con le Lorimer, la sua cortesia era stata incessante quanto discreta. Diverse volte Gertrude si era raccomandata di considerare la cosa normale per non essere chiamata a un più intenso fervore di gratitudine. Eppure qualcosa nell'atteggiamento di lui pareva escludere ogni espressione di ordinarietà. Non era un favore personale quello che gli offriva. Allungare una mano verso una creatura che sta affogando non è un gesto di galanteria, è piuttosto il riconoscimento di un naturale obbligo umano. Lord Watergate prese una sedia fra le due ragazze e dopo qualche commento Constance dichiarò l'intenzione di andare a cercare Lucy nello studio. Dia Lucy di venire qua quando avrà immerso con sua soddisfazione le lastre, disse Gertrude, un po' contrariata per l'abbandono di Constance. Aver condiviso certe esperienze insieme, come era stato per lei e Lord Watergate, rende i rapporti occasionali più complicati. Queste due persone, sconosciute a tutti gli effetti, erano state insieme proprio in quei rari momenti dell'esistenza in cui l'elaborato armamentario delle relazioni quotidiane viene accantonato. Quando un'anima si specchia in un'altra anima senza veli che si sovrappongono, quando una voce umana risponde a un'altra voce umana senza la mediazione di una maschera teatrale. Insieme alla giovinezza perdiamo il rossore, esitazione, i segni esteriori dell'angoscia, ma probabilmente per la maggior parte di noi l'insicurezza, svanendo in superficie, affonda soltanto più profondamente nell'anima. Dopo che la porta si chiuse dietro Constance, Lord Watergate si voltò verso Gertrude. Signorina Lorimer, temo che la vostra capacità di tolleranza debba essere di nuovo messa alla prova. Cosa succede? Domandò mentre la languida incredulità che nulla potesse accaderle scendeva ora su di lei, disperdendo la momentanea nuvola di imbarazzo. Lord Watergate si sporse in avanti, guardandola con serietà. Ci sono notizie del povero giovane Jeremy. Gertrude ebbe un sobbalzo. Intendete? Che lo hanno trovato? Che non ci sono dubbi? Al contrario, i dubbi ci sono tutti. Lo guardò perplessa. Signorina Lorimer, temo ci sia una crudele incertezza in serbo per voi e probabilmente senza senso. Sono venuto qui oggi per prepararvi a quello che verrete a sapere tra non molto. Mi è capitato di apprendere da fonti ufficiali quello che verrà pubblicato domani su tutti i giornali d'Inghilterra. Corre voce che Jermyn sia stato trovato vivo. Lord Watergate! Gertrude balzò in piedi tremando in ogni arto. Si alzò anche lui e continuò con gli occhi nel frattempo indugiavano sul suo volto. Sono giunti alla centrale di polizia alcuni informatori nativi dell'entroterra, fornendo resoconto su due inglesi che, a detta loro, sono in vita, ma prigionieri di uno dei villaggi ostili. Le descrizioni dei prigionieri corrispondono a quelle di Steele e Jeremy. Lucy, pronunciò debolmente Gertrude. Sono venuto qui principalmente per il bene di vostra sorella. Domani le chiacchiere si diffonderanno in tutta la città. Non è meglio che la prepariate questo facendole al contempo presente l'estrema probabilità della loro infondatezza. Vorrei che la cosa fosse tenuta completamente nascosta. Forse potrebbe persino essere gestita finché non arriva un'ulteriore conferma. Non posso nascondervi che al momento do poco valore alla cosa. Era nell'evoluzione naturale della questione che sarebbe spuntata una tale diceria, non essendo stato trovato finora il corpo di nessuno dei due poveretti. Quali misure verranno adottate? Chiese Gertrude dopo un istante di silenzio. Non aveva la benché minima convinzione che Frank sarebbe mai tornato di nuovo fra loro. Lei e Lucy erano passate per sempre dalla parte della gran maggioranza delle persone sfortunate. Deve essere organizzato al più presto un gruppo di salvataggio, dato che la guerra è praticamente alla fine. In sostanza si risolverebbero tutto con un riscatto se ci fosse un fondo di verità nell'intera faccenda. Devo entrare in possesso di ulteriori informazioni prima dei giornali. Inutile dire che ve le porterò subito. Prese il cappello e rimase un momento con lo sguardo abbassato su di lei. Lord Watergate, non tentiamo neanche di ringraziarvi per la vostra cortesia. Sfortunatamente sono stato in grado di fare così poco per voi. Vorrei essere venuto oggi come portatore di buone notizie. Sono destinato a quanto pare essere il vostro uccello del malaugurio. Abbassò subito gli occhi e Gertrude si girò dall'altra parte. Ci fu una pausa fra i due, poi la giovane disse: Ci vorrà molto prima che possano arrivarci notizie attendibili. Non sono in grado di dirvelo, può trattarsi di una questione di giorni o settimane o persino mesi. Ho paura che sarà impossibile evitare alla mia povera Lucy queste chiacchiere. Anch'io. Conto su di voi per preservarla da false speranze. Così devo recitare la parte di Cassandra. Pensò Gertrude con un po' di malinconia. Ricopriva sempre qualche ruolo odioso, qualche duro colpo finiva per cascare su di lei. Lord Watergate si diresse verso la porta, ebbe un mutamento repentino di sentimenti. Forse è vero. Lui colse il suo stato d'animo. Forse sì. Si scambiarono un sorriso come due bambini. Constance Devonshire, venendo su pochi minuti dopo, trovò Gertrude in piedi e sola al centro della stanza, mentre un incerto sorriso le indugiava sul volto. Un sospetto che non era nuovo si rafforzò nella mente di Connie. Avvicinandosi all'amica, disse in modo significativo: Gertie, cosa ti ha detto Lord Watergate? Connie, sai tenere un segreto? Quindi Gertrude le raccontò di quella nuova speranza, indefinita, dolce e pericolosa, che Lord Watergate aveva portato con sé. Ma è la verità, Gertrude, è davvero così? Disse Connie mentre le lacrime le rigavano le guance. Ho sempre saputo che il contrario non era possibile. Oh, Gerti, solo vederlo, solo sapere che è vivo. Non basterebbe anche solo questo per essere felici tutto il resto dei nostri giorni. Ma questa esaltazione disinteressata un po' si spense quando Constance tornò al Queen's Gate, dove non si pensava ad altro che ai preparativi per il previsto trasloco. Si sdraiò con sentimenti confusi, rimanendo sveglia e singhiozzando per tutta la notte. Persino Gerti, pensò. Perderò persino lei. Perché si ricordò del sorriso negli occhi di Gertrude quel pomeriggio in cui l'aveva trovata da sola, dopo la visita di Lord Watergate. Un sorriso al quale scelse di collegare un significato che non riguardava né la felicità di Frank e né quella di Lucy.